2024 sarà presente con i suoi studi al Cersaie, quartiere fieristico Agora dei Media. Tutte le info su radio24.it. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. 5 Stelle, nuova tegola in Sicilia. Il Tribunale conferma la sospensione delle regionarie. Grillo dice Cancelleri resta candidato. Stupro a Villa Borghese a Roma. Raggi invoca leggi speciali. Pronto un piano del comune. Ryanair cancella 400.000 voli in Europa, 700 in Italia. Bruxelles attacca, rispetti i diritti dei passeggeri. Cannibalizzata dalle vendite online, fallisce la storica catena di giocattoli Toys for Us. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. È sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo in diretta video e se volete potete scriverci e commentare anche là. In apertura dunque torniamo a parlare del Movimento 5 Stelle all'indomani delle candidature per la Premiership che vedono in prima linea Luigi Di Maio. Il Tribunale siciliano conferma la sospensione delle regionarie, mettendo in crisi dunque la candidatura di Cancelleri. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Una decisione a sorpresa quella del Tribunale di Palermo, che sospende le regionarie del Movimento 5 Stelle con la candidatura a presidente di Giancarlo Cancelleri. L'ha deciso il giudice della prima sezione civile, Claudio Spiga, dopo il ricorso presentato dall'attivista Mario Giuliani, escluso per non aver sottoscritto in tempo il codice etico. Il Tribunale conferma così la decisione presa lo scorso 12 settembre in via cautelare e la decisione riguarda sia il primo che il secondo turno. Lo staff 5 Stelle è riunito in queste ore per decidere il da farsi. La prima soluzione potrebbe essere la ripetizione delle selezioni online, sia del primo che del secondo turno. Bisognerebbe mettere in moto in tempo da record la macchina organizzativa, perché la dei simboli è fissata per sabato, mentre le liste provinciali e il listino dei candidati presidenti vanno depositati entro il 6 ottobre. Altra strada è quella dell'espulsione di Giulivi, che comporterebbe quindi una subita carenza di interesse da parte del ricorrente, ma questo comporterebbe un danno d'immagine per il movimento. Intanto Beppe Grillo dice Cancelleri rimane il nostro candidato. A te Simone. E grazie ad Elisabetta Fiorito. Come avete sentito, abbiamo avuto qualche problema con il collegamento con la Camera, speriamo che si sia capito tutto, ma ci sembra di sì. All'ombra della consultazione elettorale siciliana si va componendo un quadro che è spunto per quello nazionale. L'analisi del martedì di Daniele Biacchessi. Le elezioni siciliane del prossimo 5 novembre rappresentano il vero banco di prova delle alleanze politiche che si sfideranno nella primavera 2018 su scala nazionale. È vero, mancano ancora numerose settimane, ma se si dovesse dare retta ai sondaggi la situazione sarebbe già delineata. Il centrodestra, unito nella candidatura di Nello Musumeci, è in testa intorno al 45% in tutte le rilevazioni realizzate negli ultimi giorni. Claudio Fava, sostenuto da MDP e Sinistra Italiana, e Giancarlo Cancellieri del 5 Stelle sono a pari merito al 25%. Fabrizio Micari, appoggiato da PD, AP e Pisapia, non arriverebbe all'8%. Su questi dati si ragiona in queste ore sul piano politico. L'alleanza di centrosinistra filo governativa non sfonda. Il 5 Stelle sarebbe con ogni probabilità il primo partito, ma giocando da solo non riuscirebbe ad imporre il suo candidato alle regionali. Fava sarebbe in netto recupero, ma l'impossibile unità con il centrosinistra alla fine favorirebbe il centrodestra, che si presenta invece compatto. Dunque questa è l'analisi di Daniele Biacchessi sulle regionali siciliane. Altro fronte che mescola il lavoro dei tribunali con quello della politica è la vicenda della Lega. Oggi un altro passaggio importante in tribunale per quanto riguarda il blocco dei conti, mentre parte la nuova strategia politica, una sorta di Aventino. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è proprio così, il cosiddetto Aventino del Carroccio è già un dato di fatto, banchi della Lega vuoti stamani alla ripresa dei lavori parlamentari nell'aula di Palazzo Madama e l'assenza dei leghisti era temuta nel centrodestra, avrebbe potuto avere ripercussioni anche sul voto delle mozioni sulle banche previsto sempre per la mattina, facendo abbassare il quorum, alla fine rischio evitato con il governo che ha rinviato la seduta. La protesta leghista annunciata ieri dal segretario Matteo Salvini, lo ricordiamo, è contro la decisione dei magistrati di bloccare i fondi del partito nell'ambito dell'inchiesta sul tesoriere Belsito. Un sequestro, quello del Tribunale di Genova, che riguarda in via cautelativa 48 milioni di euro. Un atto sovietico, quello dei magistrati liguri, lo ha bollato il leader leghista, da qui il ricorso per il dissequestro dei beni e la scelta di disertare il Parlamento, fissando due appuntamenti per domani e giovedì nelle zone terremotate. Salvini guarda intanto al voto di primavera e sulla legge elettorale spiega se vogliono seriamente portare in Parlamento la settimana prossima una legge elettorale chiara, maggioritaria. Noi la votiamo in un quarto d'ora. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. È un Parlamento, come già si diceva, che si avvia verso il lavoro sulla legge di stabilità. Questa mattina ha parlato il ministro dell'economia Piercarlo Padoan e ha detto: le risorse sono pochissime dati i vincoli di bilancio, il PIL è migliorato ma non in modo tale da allentarli in modo significativo. Sicuramente, ha aggiunto Padoan, l'occupazione giovanile è una delle pochissime voci che verrà aggredita nell'attuale quadro di risorse pubbliche. A Roma adesso, dove dopo lo stupro di una donna a Villa Borghese si valutano nuove misure contro il degrado e la violenza. Sentiamo. È ancora caccia al ventenne presuntatore dello stupro della donna tedesca di 57 anni avvenuta a Villa Borghese nella notte tra domenica e lunedì. Al vaglio anche le telecamere del parco che potrebbero averlo immortalato. Si tratta del terzo caso di violenza sessuale a Roma in poco più di 7 giorni. Un'escalation che sarà al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato in prefettura nei prossimi giorni. Al vaglio misure come taxi dedicati, chiusura dei parchi al tramonto, potenziamento dell'illuminazione, installazione di nuove telecamere. Sulla videosorveglianza intanto il Viminale pensa già di intervenire, non solo a Roma ma anche in altre città, sfruttando le possibilità di uso di nuove tecnologie offerte dal decreto sicurezza, come ha spiegato oggi in audizione alla Camera il ministro dell'Interno Minniti. Abbiamo fatto delle operazioni di carattere sperimentale a Napoli con un certo successo di un rafforzamento di questo tipo di misure. Intendiamo estenderle in maniera molto significativa. Il governo varie leggi speciali, chiede intanto la sindaca Raggi, parlando di ennesimo atto mostruoso, ignobile, che non deve restare impunito, mentre la Lega grida all'epidemia e annuncia un DDL per introdurre la castrazione chimica. Fratelli d'Italia infine definisce Roma città terra di nessuno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E più avanti nel corso della trasmissione avremo ospite Marco Cardilli, tornerà da noi, che è il delegato alla sicurezza del Comune di Roma, delegato alla sicurezza dal sindaco Virginia Raggi, per farci dare qualche dettaglio in più sul piano al quale il Comune sta pensando. Un'altra violenza sessuale nel frattempo è avvenuta a Catania ai danni di una dottoressa della Guardia Medica. Era ancora seminudo quando è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Acireale il 26enne Alfio Cardillo per aver violentato una dottoressa in servizio alla Guardia Medica di Trecastagni nel catanese. Il giovane, un disoccupato originario di Santa Venerina con piccoli precedenti, è stato bloccato intorno alle 2:30 mentre cercava di fuggire dalla struttura dopo aver aggredito e stuprato la donna di 51 anni alla quale aveva chiesto di farsi medicare dopo essere entrato nello studio con una scusa. Inizialmente le ha fatto solo dei complimenti, poi è diventato sempre più insistente, ha iniziato ad agitarsi e a mettere a soqquadro la stanza, disattivando il telefono e danneggiando gli arredi che si trovavano nello studio del medico, finché ha sequestrato e violentato più volte la dottoressa tenendola prigioniera per circa 2 o 3 ore. L'allarme è scattato quando la donna è riuscita a liberarsi e urlare e un vicino di casa che ha sentito le sue grida ha fatto intervenire i carabinieri che hanno arrestato Cardillo. La vittima invece è stata ricoverata all'ospedale di Acireale per gli accertamenti di rito. Sulla accaduto è stata subito aperta un'inchiesta della Procura di Catania. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore. La questione di Ryanair è un po' sulla bocca di tutti in queste ore e spesso ne stiamo parlando anche qua a Radio 24. A Due di Denari se ne è parlato molto e se volete c'è il podcast. Vediamo di fare un punto. Sotto la lente per migliaia di voli cancellati, con una media di 48 ore al giorno per 6 settimane, per un totale di circa 400.000 passeggeri coinvolti. E questa la dimensione del caos dei cieli europei che interesserà fino a ottobre Ryanair, la compagnia low cost irlandese costretta, dice, a prendere questa drastica decisione per un problema di organizzazione delle ferie dei piloti, ma si prepara anche a pagare un conto salato da 20 milioni di euro per i rimborsi. La Commissione europea ammonisce la compagnia sul rispetto dei diritti dei passeggeri, come spiega Enrico Brivio, portavoce portavoce della Commissione. Vigileremo perché Ryanair, come tutti i vettori, applichi le regole europee. Spetta poi all'autorità nazionale italiana, ovviamente, vigilare che siano applicate. Parla di contromisure il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini. Stiamo lavorando su tre fronti. Da una parte il riconoscimento di un danno economico. C'è bisogno perlomeno di 15 giorni di avvertenza se ci sono delle modifiche e siamo perfettamente al di là. Secondo, la previsione di compensazioni ulteriori. Terzo, abbiamo chiesto la riprogrammazione dei voli. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Ieri vi abbiamo raccontato di un documento circolato in ambienti vaticani secondo il quale Emanuela Orlandi sarebbe stata pagata per allontanarsi, un documento la cui veridicità è stata smentita dal Vaticano e si è rivelato essere un falso. Comunque la testimonianza che nella Santa Sede stanno ricominciando a muoversi i cosiddetti corvi, l'analisi di Katia Caramelli. Nel documento contenuto nel libro del giornalista dell'Espresso Fittipaldi, in cui si evidenzia il presunto rendiconto delle spese sostenute dal Vaticano per nascondere per anni Emanuela Orlandi, non ci sono intestazioni ufficiali e ci sono evidenti errori formali, a cominciare dal nome errato di un mittente, un falso con ogni probabilità, come ipotizza lo stesso giornalista che lo ha ricevuto e come ripetono con insistenza dalla Santa Sede. Ma la diffusione di questo dossier solleva un'altra questione. Chi lo ha messo a punto? Chi lo ha dato alla stampa? E soprattutto perché? Di certo il documento è fuoriuscito dalle sacre mura. Il dubbio è che si stia tornando di nuovo alla stagione dei corvi, che ancora una volta si utilizzi la dolorosa e avvolta dal mistero vicenda della Orlandi per una resa dei conti la cui posta in gioco sia ben altra. Il testo non colpisce direttamente uomini chiave del pontificato di Francesco, probabilmente affonda le sue radici nel passato. Il dossier potrebbe essere il primo di una lunga serie. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo al fallimento annunciato nella notte, il Chapter 11, cosiddetto per Toys for Us. Le vendite online mettono in ginocchio Toys R Us. La più grande catena di negozi di giocattoli degli Stati Uniti è sull'orlo della bancarotta. A poche settimane dall'avvio della stagione natalizia, il gruppo ha infatti depositato tutta la documentazione necessaria per la bancarotta assistita prevista dalla legge fallimentare americana. L'obiettivo è poter proseguire l'attività mentre l'azienda procederà a ristrutturare il suo debito da 400 milioni di dollari in scadenza il prossimo anno e la sua rete di distribuzione. Toys R Us ha complessivamente 65.000 dipendenti e una rete di 1.600 negozi in tutto il mondo. Il re dei giocattoli statunitensi è in crisi per l'esplosione delle vendite online, che hanno messo in difficoltà le vendite al dettaglio. L'ipotesi della bancarotta serpeggia da giorni e ha spinto le agenzie di rating a tagliare le loro valutazioni sulla società, riflettendo le attese del mercato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro giro per l'Italia. Torneremo a parlare di Roma, naturalmente, se ne avremo lo spazio e gli ospiti, e poi torneremo a parlare di immigrazione. Bene, ieri abbiamo toccato il tema e l'abbiamo fatto con un sindaco, lo avete sentito, di questa ordinanza che una serie di sindaci, soprattutto lombardi, stanno varando perché ci sia un maggiore controllo, per così dire, sulle persone, sui migranti, i profughi, i richiedenti asilo che vengono ospitati in alcune strutture, in particolare da parte di privati. Sono delle ordinanze che sono all'esame del prefetto, per esempio, di Milano, che ha qualche perplessità. Alcuni sospettano che possa essere anticostituzionale. Ieri abbiamo sentito un sindaco, appunto, che era il sindaco di Cologno Monzese, che esprimeva le motivazioni per le quali ha deciso di varare questa ordinanza. Oggi sentiremo qualcun altro, qualcuno che si sta opponendo a queste ordinanze, e cercheremo di capire perché, posto soprattutto il fatto che, come abbiamo raccontato ieri, insomma, il sindaco ha anche dei doveri come autorità sanitaria, come autorità di protezione civile, di conoscere che cosa succede sul suo territorio. Ci fermiamo dunque, traffico, a tra un attimo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per gli sms e i messaggi su WhatsApp e la nostra diretta video su Facebook e sulla pagina Facebook di Radio 24. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dello stupro a Villa Borghese, ci torneremo tra un attimo, di Ryanair che cancella 400.000 voli in Europa e 700 in Italia. Abbiamo parlato del fallimento di Toys for Us e abbiamo parlato in apertura della nuova tegola arrivata per il Movimento 5 Stelle in Sicilia, ossia il Tribunale che ha confermato la sospensione delle cosiddette regionarie. Oh, fatevi dire una cosa su questo, perché come tocchiamo l'argomento Movimento 5 Stelle arrivano subito i messaggi WhatsApp o via SMS di qualcuno che dice: i soliti pagliacci, la prima apertura contro il Movimento 5 Stelle, o altri che dicono: che importanza la prima notizia sul Movimento 5 Stelle, ma siete proprio faziosi e seminatori di odio, fate pena. Allora, spiegatemi se è o non è importante una notizia che potrebbe mettere in crisi la candidatura di quello che si candida a presidente della regione per quello che potrebbe essere il primo partito della regione Sicilia, in una regione che conta 5 milioni di abitanti e che va al voto il 5 novembre. E non è una notizia faziosa, è una decisione del Tribunale che riguarda il candidato Cancelleri. Quindi non c'è niente di fazioso, non c'è niente contro il Movimento 5 Stelle, ma è semplice e pura cronaca di quello che è avvenuto in un'aula di Tribunale. Abbiamo dato anche conto, tra l'altro, di quello che dice lo stesso Cancelleri: che resto candidato e farò ricorso, ma che volete di più? Simone Canetteri, giornalista del Messaggero, buongiorno, ciao Simone, bentornato. Buongiorno a voi. Allora, per parlare dello stupro che è avvenuto a Villa Borghese nella notte e più in generale di una questione di sicurezza che riguarda la capitale, qua lo dico preventivamente, le responsabilità del comune su questo sono ovviamente molto sfumate. Il Messaggero, tra l'altro, sta conducendo una campagna da giorni esattamente soprattutto contro la violenza sulle donne, proponendo una serie di cose, tra cui taxi dedicati, controlli a distanza, un ruolo di controllo anche per i gestori dei locali, e quindi onore a voi Simone per questo lavoro che state tentando di fare. Dall'altra parte ti chiederei un po' che cosa sta pensando il Comune di Roma in questo momento per intervenire sull'emergenza, che cosa porterà al tavolo in prefettura da quel che sei riuscito a capire. Allora, prima di tutto bisogna fare una rapidissima promessa, che ciclicamente il tema dell'emergenza stupri purtroppo ricorre a Roma, ricorre agli onori delle cronache, e purtroppo per un tic della politica alla fine chi governa il Campidoglio finisce nel tritacarne delle polemiche. Accadde ad Alemanno, accadde a Veltroni addirittura fino alla campagna elettorale, con Alemanno che poi vinse sulla scia del bruttissimo omicidio Reggiani, poi con Alemanno sindaco accaddero altri stupri, venne attaccato dalla sinistra, adesso c'è la Raggi, quindi il Movimento 5 Stelle dal Campidoglio, e la polemica politica continua dicendo Roma abbandonata. Detto questo, come hai detto giustamente anche tu, le responsabilità sull'ordine e la sicurezza sono comunque parziali da parte del Comune. Domani si svolgerà in prefettura questo tavolo ad hoc per cercare perlomeno di prevenire, o meglio di rendere una città più vivibile. Da dove si parte? L'idea della Raggi è quella di potenziare il sistema innanzitutto di telecamere che sono presenti a Roma, perché il tema di fondo è metterle tutte in connessione tra loro e soprattutto portare più occhi elettronici nelle cosiddette zone pericolose, delle zone che di notte sono avvissute, abitate comunque da una popolazione che di senza tetto, di sbandati, come capita in tutte le grandi città, le grandi metropoli europee. Quindi le zone indicate ovviamente sono quelle che chi conosce un po' Roma riesce a individuare subito, basta passarci la notte, quindi dalla stazione Termine, tutte le vie limitrofe, in quel rione, passando per Colle Oppio, l'Aventino, tutte le zone, soprattutto nella vicinanza di parchi, perché un altro dei grandi problemi di fondo è che i parchi, Roma ha una superficie sterminata di parchi, 4 volte, se non mi sbaglio, quella di Londra. Il problema è la sicurezza e il controllo. Una delle idee che sta balenando nella testa della sindaca e del suo delegato Marco Cardilli alla sicurezza è proprio questa, è quella di provare a mettere anche delle cancellate per fare in modo che la notte questi parchi non diventino teatri di violenze, teatri, certo, insomma, certo Simone, proprio per le dimensioni che hanno i parchi romani è decisamente più difficile, cioè l'amministrazione milanese lo fece qualche anno fa, ma ripeto, la dimensione dei parchi milanesi, soprattutto quelli che sono nelle zone centrali di Milano, è ovviamente molto più limitata. Penso per esempio al Parco delle Basiliche, a Parco Sempione, per chi conosce Milano sa di che cosa parliamo. È chiaro che recintare un parco di quel genere è un conto, recintare un parco come Villa Borghese, come Villa Ada, come Villa Panfili, insomma, è tutto un po' più complesso, ecco. Anche perché spesso e volentieri questi parchi sono ospitano siti istituzionali, penso a Villa Panfili, penso all'ambasciata egiziana, quindi è anche difficile, diciamo, delimitarle, no? Noi abbiamo visto oggi Villa Borghese è in alcuni tratti terra di nessuno, ma recintarla tutta sarebbe un'opera ciclopica, non si sa quando si finirebbe. Di sicuro quello che manca è la percezione di sicurezza, ma fondamentalmente la percezione di sicurezza viene aumentata con le telecamere, viene aumentata anche con un presidio di vigili urbani che sembra che il comune voglia mettere in campo per cercare comunque di mettere delle divise visivamente a cui si possa chiedere un'informazione, a cui si possa chiedere a che ora passa un taxi, a che ora passa un autobus. Sperando poi che passi. E forse anche un po' più di luce, mi sembra di capire, no? Perché poi c'è anche quello. C'è anche un piano di illuminazione a LED, ovviamente in collaborazione con Acea, per cercare, insomma, di togliere le mille zone grigie che purtroppo puntellano anche il centro cittadino, perché c'è una realtà ribaltata. Spesso uno nell'immaginario pensa che bisogna andare nelle periferie per assistere a terre di nessuno, a terre dove comunque non c'è controllo. Invece il centro di Roma, il primo municipio che è grande su per giù come Firenze, presenta tantissime zone che non sono controllate, delle zone che sono poi molto frequentate da turisti. Beh sì, del resto abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Simone, del tentativo di stupro avvenuto sulle scale del Campidoglio, abbiamo raccontato di quello che è successo a quella alla ragazza fuori dalla stazione Termini, insomma, e quindi siamo appunto in zona centrale, poi le zone delle stazioni sono sempre complicate da questo punto di vista e lo sappiamo, e però insomma il dato di fatto è questo. Di sicuro con la legge Minniti, che dà più potere ai sindaci, i sindaci potranno ovviamente avere, insomma, la mano un po' più forte per quanto riguarda la sicurezza e il decoro nelle città, anche attraverso l'utilizzo dei DASPO, che poi va combinato insieme alle questure nei confronti delle persone che comunque vivono nelle stazioni, che vengono trovate più e più volte a delinquere. Questo è un grosso tema, purtroppo basta scendere da una Frecciarossa o comunque da un regionale alla stazione Termini per rendersi conto a volte se essere subito circondato da chi da malintenzionati, insomma è una situazione che la RAGI ha ereditato, questo va detto, sì. Bisogna essere comunque intellettualmente sinceri. Certo. Allora grazie dunque a Simone Cannettieri del Messaggero, che ci ha aiutato a tracciare un quadro di quelli che potrebbero essere gli interventi appunto una maggiore sicurezza soprattutto delle donne nella capitale. Da notare, e traggo sempre la notizia dal Messaggero, che parliamo di violenze denunciate anche per ridimensionare, no? Quella che al momento appare un'emergenza perché una serie di casi si susseguono uno dietro l'altro, però per dare un'idea, sempre dal Messaggero prendo: le violenze sessuali denunciate nel capoluogo lombardo, ossia Milano, sono state l'anno scorso 284, a Roma 249, e tra l'altro con un'estensione territoriale e di popolazione molto più ampia. Quindi teniamo anche presente, facciamo la tara, ci sono anche molte violenze non denunciate, bisogna vedere effettivamente quante sono, e però il quadro dei numeri al momento che ci viene consegnato nel 2016, per quanto riguarda il 2016, è questo per appunto mettere i puntini sulle i. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati tra un attimo, e poi andiamo, come già vi dicevo, a parlare di immigrazione, di queste ordinanze che vengono varate sempre più spesso dai sindaci, anche se vogliamo in forza dei nuovi poteri concessi, e che stanno creando un po' di agitazione e proteste da parte dei prefetti e anche da parte delle associazioni che si occupano della difesa dei migranti e del diritto dell'immigrazione. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: 5 Stelle, arriva una nuova tegola in Sicilia, il Tribunale conferma la sospensione delle regionarie. Nello stupro a Villa Borghese a Roma, Raggi invoca leggi speciali, pronto un piano del comune. Ryanair cancella 400.000 voli in Europa, 700 in Italia. Bruxelles attacca, rispetti i diritti dei passeggeri. Cannibalizzata dalle vendite online, fallisce la storica catena di giocattoli Toys R Us. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, oltre che qua su Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sempre su Roma. Un ascoltatore, un'ascoltatrice ci dice: a Villa Panfili c'era addirittura un distaccamento della polizia locale, ma ora è chiuso, la struttura diroccata, sempre a proposito della capitale. Un altro ci dice chiaramente che Roma è 8 volte più estesa di Milano, date i parametri reali, ma in realtà sarebbero addirittura 10 volte, cioè Roma è 10 volte più grande di Milano. È vero che però qua stiamo parlando innanzitutto del cuore della capitale e quindi non so come dire, non arriviamo fino a Ostia e alla grande estensione che ha Roma fuori dal grande raccordo anulare. E dall'altra parte ricordiamoci che è vero, ma è vero anche che per la presenza di ministeri e di tutte le strutture pubbliche, delle ambasciate e via dicendo, Roma è anche una delle città che ha il più alto numero di uomini delle forze dell'ordine che circolano appunto per la capitale. Poi cosa facciano, cosa non facciano, ovviamente questo è tutto un altro conto. Avvocato Alberto Guariso, coordinatore del servizio antidiscriminazione di ASGI, che cos'è? L'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Buongiorno avvocato, benvenuto. Buongiorno, grazie. E qua ci consente anche di fare una precisazione all'ascoltatore. Abbiamo detto, più avanti ne parleremo con una persona che si occupa di diritto dell'immigrazione. Un ascoltatore dice: attenzione, chi ha detto che l'immigrazione è un diritto? No, ma per diritto non intendiamo che è un diritto, intendiamo come diritto in questo caso il complesso di norme, diritto dell'immigrazione, cioè il complesso di norme che regolano l'immigrazione nel nostro paese. L'abbiamo chiamata Guariso perché ieri abbiamo parlato col sindaco di Cologno Monzese di questa ordinanza che lui, come tanti, ha varato, come tanti altri sindaci, quelli in particolare che hanno deciso di non sottoscrivere di non firmare insieme al prefetto e al comune di Milano questo accordo per l'accoglienza diffusa, ha deciso di varare un'ordinanza che prevede in sostanza che i cittadini che hanno intenzione di ospitare migranti e di farlo per esempio in base ad accordi con la prefettura, dando la disponibilità della loro casa e via dicendo, debbano preventivamente comunicarlo al comune. Voi vi siete opposti a questa scelta, mi spiega perché? Sì, ci sono alcuni aspetti di tipo strettamente giuridico e che sono gli stessi che il prefetto ha rilevato nella lettera che ha inviato appunto al sindaco di Cologno e degli altri comuni chiedendo loro di revocare l'ordinanza. E l'aspetto è l'adozione di queste ordinanze sindacabili, contingibili, urgenti, cosiddette, che sono quelle che possono essere adottate quando c'è un pericolo gravissimo alla incolumità pubblica. Ora, questi comuni che non hanno al loro interno alcun richiedente asilo e che non possono, ricorda il prefetto, occuparsi della disciplina dell'immigrazione in generale, ma solo delle questioni che relative al loro territorio, non possono utilizzare questo strumento autoritativo particolarmente, come dire, grave nei confronti dei cittadini per risolvere problemi e per come dire, stabilire delle regole che non rientrano nella loro competenza. Questo qui è un aspetto, diciamo così, o di ordinamento. Mi scusi, Guarisco, quindi il concetto è un po' basta che cambiate lo strumento aspetti, questo era un primo aspetto che, ripeto, il prefetto ha rilevato. Seconda cosa è che tutti questi dati che loro chiedono, che sono da un lato quelli che lei ricordava, ma addirittura poi anche dei dati successivi, e cioè addirittura è prevista una relazione quindicinale sulle condizioni di salute degli ospitati. Tutti questi dati, da un lato, sono già nel possesso della pubblica amministrazione. Ora, un principio affermato in migliaia di sentenze pacifiche nell'ordinamento è che se l'amministrazione ha già dei dati in suo possesso, che ce li abbia il comune, che ce li abbia la prefettura, non può aggravare il procedimento a carico dei privati. E se la è vero Guariso, è vero che noi da privati, che abbiamo da fare a che fare quotidianamente con la burocrazia, con il mondo dello Stato e le amministrazioni pubbliche, vediamo che questo principio viene scavalcato abbastanza di frequente, no? No, spesso c'è l'autocertificazione, c'è il principio dell'autocertificazione, ma in ogni caso il problema che sta a monte, l'unico problema vero, è quello della collaborazione tra Stato e comuni. Non possono trattare i privati come se facessero una cosa ostile al comune, quando il privato si mette a disposizione di un'altra amministrazione, dando a questa amministrazione che gli richiede tutti i dati necessari, e poi dicono: ah no, ma tu fermati prima dal DME. Non si capisce perché, visto che Guariso poi... però mi permette una cosa, su questo secondo me c'è un punto: il sindaco non funge anche da autorità sanitaria e da autorità di protezione civile, quindi non è anche corretto che il sindaco venga a conoscenza di chi risiede sul suo territorio, il sindaco inteso come l'amministrazione comunale, no? Certo, ma il decreto Minniti proprio per questo obbliga i sindaci a iscrivere all'anagrafe coloro che, ma proprio con funzione di controllo, non come funzione di favore nei confronti dei richiedenti, i richiedenti che stanno in una struttura hanno l'obbligo di essere registrati all'anagrafe in modo da sapere esattamente chi c'è e chi non c'è. Quindi la particolarità di queste ordinanze è appunto quella di provocare aggravi procedimentali che non hanno in realtà uno scopo, perché chi c'è o chi non c'è il comune lo sa proprio grazie a un provvedimento del decreto Minniti, era così anche prima, ma comunque è stato rafforzato adesso. Quanto ai dati sanitari, ma è evidente a tutti che non possono essere richiesti a un proprietario di una casa di vedere, o di una cooperativa, un ente che è nell'ambito del sistema di accoglienza, di trasmettere dei dati sanitari personali, oltretutto con una relazione quindicinale, al comune, che si tratta di dati sensibili, tutelati dalle norme sulla privacy, che non possono essere messi in circolazione, salvo che non ci sia, dice la legge, un'emergenza sanitaria locale. Allora, quello, ma io comune non posso stabilire in generale un obbligo di chi che sia che risiede sul mio territorio e dire: ma dimmi come stai. La legge prevede che il comune può acquisirli se ci sono delle effettive emergenze sanitarie locali, un'emergenza, un'epidemia, quando... ma questa cosa assolutamente non è fattibile. Infatti, Guariso, noi abbiamo fatto anche un esposto al garante della privacy. Guariso, mi permette da esterno, da giornalista, di dirla in questo modo. Allora, c'è ovviamente una questione giuridica e legale sotto da vedere. Bisognerà vedere poi in giudizio se queste ordinanze reggeranno oppure no. Detto ciò, mi sembra una questione politica. Esatto, no, ma non c'è dubbio, questa è anche la ragione, non è che siamo qui a cavillare. Il problema è che queste ordinanze, le quali nelle premesse dicono: siccome c'è una situazione emergenziale dell'immigrazione, io ordino questo e sanziono, perché poi sono previste delle sanzioni per il privato che non adempie tutti questi oneri, tutto questo non serve alla pubblica utilità, al di là che sia appunto del cavillo giuridico, non serve, perché appunto è un aggravio inutile che provoca solo appunto aggravio procedurale a carico dei privati, crea un allarmismo dichiarando questa emergenza nel comune di Cologno che non ha al suo interno. Vabbè, però Guariso, mi scusi però, le ordinanze dei sindaci arrivano ogni quarto d'ora, nessuno le prende come necessariamente emergenziali, no? Lo sono da un punto di vista giuridico, però da un punto di vista del cittadino non è che creino particolare allarme. Se io dico ai miei cittadini: guardate, ho dovuto intervenire con un mezzo straordinario, cioè non è che la legge, se prevede dei requisiti per un atto amministrativo, lo dica così tanto per fare un discorso tarallucce e vino, lo dice, come dire, fissa le regole del nostro vivere civile e si dice: tu sindaco puoi fare questa cosa, ti do questi poteri solo quando c'è un grave pericolo emergenziale per la tua cittadinanza, tu lo devi fare solo in quelle occasioni. se lo fai fuori di quelle occasioni, veramente utilizzi uno strumento che il prefetto, non noi, dice non potevi utilizzare per creare un allarme sociale che non c'è. Questo mi sembra che, allora, come dire, opinione pubblica, politica e diritto, in un certo senso si raccordino nel credo che si deve convenire su queste cose. Allora, vedremo come andrà a finire. Ieri abbiamo sentito appunto il sindaco di Cologno, oggi abbiamo sentito lei, vedremo come andrà a finire con queste ordinanze e che cosa ne accadrà di queste ordinanze. Un'ultima notizia prima di andare al traffico e poi a Mario Platero, appena battuta dalle agenzie, era attesa per oggi in effetti. Un giudice di istruzione del tribunale di Amposta in Catalogna ha di nuovo archiviato la causa contro l'autista del bus nel quale morirono il 20 marzo 2016, lo ricorderete, 13 studentesse Erasmus, 7 delle quali italiane, sull'autostrada fra Valencia e Barcellona. Il GIP, riferiscono i quotidiani spagnoli, ritiene non ci siano indizi per accusare l'autista e rinvia le parti ad un'eventuale causa civile. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.